I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Qual è il problema economico dell'area euro? È forse la bassa crescita nonostante il petrolio sia ancora su livelli accettabili, i tassi di interesse a zero e l'euro si sia indebolito nei confronti delle altre valute? È forse l'assenza di investimenti infrastrutturali che facciano ripartire i consumi interni? No. Il problema dell'area euro si chiama Grecia. La forzatura può sembrare una battuta, ma in realtà è quello che un osservatore esterno potrebbe pensare se guardasse il motivo per cui ieri e oggi si sono dati appuntamento i ministri economico-finanziari dell'area euro. Certo, l'obiettivo è abbastanza concreto, vedere quali progressi ha fatto Atene sulle riforme fondamentali, ma la cosa interessante è che mentre gli altri paesi fuori dall'Europa si interrogano su quali rischi corre l'economia nel 2017, borse che hanno raggiunto livelli troppo alti, aumento dei tassi della Federal Reserve in che termini, rischio della trappola della liquidità e addirittura lo spettro di una stagnazione secolare, in Europa il problema resta principalmente la Grecia. E questo nonostante il Fondo Monetario Internazionale, che si è chiamato fuori dal programma di salvataggio, abbia ribadito la settimana scorsa in maniera netta e definitiva che la Grecia non sarà mai in grado di ripagare gli aiuti che ha ricevuto e che è inutile continuare a chiedere un surplus, un attivo di bilancio superiore alle sue possibilità. Insomma, chi pensava che il problema d'Europa fosse la tenuta dell'Europa stessa di fronte a populismi più o meno demagogici, ma sicuramente alimentati da 5 anni di austerità, si sbagliava. Il problema dell'Europa si chiama solo Atene. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. In attesa di capire come e quando Londra attiverà l'iter per uscire dall'Unione Europea, continua a suscitare molto interesse la domanda sugli effetti che la Brexit avrà sull'economia britannica. È una valutazione che non riguarda tanto i dati attuali, che, ricordiamolo, indicano una buona tenuta del contesto economico di Londra, con ripercussioni meno pesanti rispetto alle previsioni della vigilia. La verità però è che ogni valutazione sugli effetti della Brexit potrà essere fatta solo quando l'uscita dalla UE sarà completata e quindi, diciamo, almeno in un paio d'anni. Per questo le preoccupazioni sono tutt'altro che svanite. Proprio ieri il Times ha dato notizia di un documento riservato del Ministero del Tesoro britannico secondo il quale se Londra optasse per una hard Brexit, cioè un'uscita pesante dall'Unione Europea e quindi anche dal mercato unico europeo, il Regno Unito rischierebbe di perdere 66 miliardi di sterline di tasse, cioè il 10% del gettito fiscale, e il PIL potrebbe crollare di oltre 9 punti, portando il paese in una profonda recessione. Basteranno queste previsioni, che sono di fonte governativa, a indurre il ministro Theresa May a soluzioni più morbide? Difficile rispondere. Di certo sembra altrettanto difficile che l'Europa possa concedere a Londra di stare nel mercato unico se, come sembra evidente, Londra non ha nessuna intenzione di rispettare la regola fondamentale della libera circolazione delle persone. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.